oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Oltre la crisi parliamone, parte alle 13.03 minuti, pronti già da tempo e organizzatissimi dall'altra parte dello studio, abbiamo Francesca Clementoni e tanti auguri e bentornato al professor Francesco Campione. Grazie, bentrovati. Adesso organizzatissimi è un parolone, però perché sto litigando col computer, però va bene. Buon anno a tutti, da contro la crisi parliamone, perché torniamo in onda nel 2014 dopo che avevamo salutato i nostri ascoltatori nell'anno che se n'è andato e torniamo più carichi che mai. Cominciamo subito coi contatti perché c'è anche una novità. Ah sì? Vai, intanto cominciamo con quelli già conosciuti. Già conosciuti, numero fisso per partecipare in diretta alla nostra trasmissione che dura fino alle 14, 051 34 64 58, ripeto 051 34 64 58, oppure sul nostro ricevitore di SMS per scrivere al 333 180 9494, vale anche per WhatsApp. E le novità? Le novità sono che c'è anche un indirizzo email a cui potete scrivere o durante la puntata o con calma durante la settimana, poi noi riceviamo tutto e riprendiamo il discorso magari la puntata successiva, ovvero amicidirivivere@gmail.com. Giusto Francesco? Giustissimo. Perfetto, ecco, così adesso avete un sacco di modi, non potete esimervi da entrare in contatto con noi. Allora Francesco, siccome noi partiamo sempre dall'attualità, io vorrei con te oggi parlare di un articolo che ho, in realtà un reportage, ma l'articolo principale si intitolava 17 milioni soffrono in silenzio, era sul Fatto Quotidiano a firma di Elisabetta Ambrosi e parlava di disagio mentale. Intanto sfatiamo un mito o una falsa convinzione, che il disagio mentale riguarda solo i matti. Scusami se l'ho semplificata così, ma purtroppo spesso è convinzione comune questa, quindi vogliamo un attimo sgomberare il campo da qua. Brava, condivido questo attacco, condivido molto questo attacco perché, come dire, per noi psicologi questa è una delle difficoltà principali, cioè quella di far capire che il disagio, che io non chiamerei mentale, chiamerei esistenziale, è qualcosa di estremamente diffuso, che tocca tutti noi, perché è il disagio che deriva dal reagire alle situazioni della vita che ci colpiscono. E chiaramente le situazioni della vita che possono determinare disagio possono toccare a tutti. Da questo punto di vista, come dire, quando per esempio nel senso comune si rifiuta l'idea che il disagio mentale possa toccare a noi, perché questo ci dà, ci fa coltivare il sospetto che siamo matti, perché popolarmente è così, noi dobbiamo dire che in realtà possiamo dire che il disagio ci può toccare tutti in quantità maggiore o minore, e quindi che un po' matti siamo tutti. Se per matto si intende andare nei matti, uscire fuori, essere in grandi difficoltà, essere arrabbiatissimi, essere depressi, tutto questo tocca, essere ansiosi, tocca tutti. Da questo punto di vista bisogna sfatare il mito che si tratti di una malattia. La malattia mentale è un conto, il disagio psicologico, il disagio esistenziale, che non chiamerei mentale per non creare equivoci, è tutto un altro conto. Mentre la malattia mentale è un processo patologico molto complesso, ed riguarda poche persone che purtroppo incappano in questo tipo di patologia, il disagio esistenziale invece è trasversale, riguarda tutti e ha a che fare con il logorio della vita. Esatto, ed è il motivo per cui noi abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni, peraltro. E quindi, perché questo articolo sul Fatto Quotidiano, che si intitolava 17 milioni soffrono in silenzio, quindi già questo dato conferma, tra virgolette, se ce ne fosse stato mai bisogno, le parole che hai appena pronunciato. Questo articolo è partito da una recente ricerca della Società Italiana di Psichiatria, che dice appunto che sono circa 17 milioni gli italiani con problemi di salute mentale, disagio, disturbi d'ansia, depressione, insonnia, disturbo post-traumatico da stress. Dice che però solo tra il 2 e il 9% ha un trattamento adeguato, per cui proprio esattamente per dati stiamo ripetendo quello che tu in maniera discorsiva hai detto poc'anzi. E molto spesso ci si affida a ansiolitici, farmaci, eccetera, quando invece sarebbe magari più opportuno un percorso per affrontare questo disagio e cercare di superarlo in modo che venga attraversato e superato definitivamente. Si parla anche di malattia democratica. Questo perché? Perché nel ragionamento che viene fatto in questo articolo si prende principalmente per riferimento il disagio sul lavoro, sia da stress di lavoro che di perdita di lavoro. E quindi noi vogliamo andare verso questa direzione. Perché democratico? Perché colpisce tutte le fasce lavorative, tutte le è interclassista in questo senso. È un disagio interclassista che colpisce il super manager come colpisce l'ultimo, il lavoro più semplice o più umile, tra virgolette. Non mi piace questo termine, ma per capirci. Io ho questa idea, scusa Francesca, un po' strana, e sono qui per essere smentito, che gli uomini ne sono più vittima. Può essere calato il silenzio su questa mia affermazione. Gli uomini vuol dire i maschi. Sì, ma sì, i maschi. Gli uomini. Ma guarda, qui non viene specificata questa cosa. Bisognerebbe leggere il rapporto preciso di... È una mia sensazione, esatto. Non sono uno studioso, tutt'altro. È una mia sensazione qua per essere smentita. È una mia curiosità. È vero che gli uomini, secondo me, sono più vittima della depressione? Punto di domanda. Chiediamo a Francesco. No, dunque, intanto, come dire, dalla sua esperienza, un rischio dal quale ci dobbiamo un pochino difendere, e lo vorrei sottolineare, è quello di fare di ogni erba un fascio e di mettere tutti questi disagi elencati tutti nella stessa categoria. Non è così. Non stanno tutti nella stessa categoria, per cui, come dire, è estremamente arduo affrontare il problema del disagio psicologico attaccando delle etichette. Quindi io le etichette le lascerei fuori, anche se probabilmente la Società Italiana di Psichiatria è affezionata alle etichette. No, per cui, cioè, come dire, perché gli specialisti in qualche modo hanno anche bisogno di definire il disagio psichico dando connotati, chiamandolo ansia, chiamandolo depressione. Ora, se vogliamo parlare specificamente di un particolare disagio, per esempio della depressione, dobbiamo parlare della depressione, non metterla nella categoria generale del disagio psichico, perché altrimenti è una grande confusione. Se parliamo poi di depressione, dobbiamo parlare appunto di quel particolare depresso, altrimenti la depressione come categoria è una categoria fuorviante. Quindi io direi che la prima cosa da fare rispetto a un tipo di indagini di questo genere è di dire: ci sono alcune cose vere e altri distinguo che bisogna fare. La cosa vera è che il disagio psichico è molto diffuso. Che il disagio psichico sia legato, in un momento come questo di crisi economica, al lavoro è quasi un'osservazione banale. Ed è l'elemento di maggiore attualità, direi. Anche se il disagio psichico di cui le persone soffrono non è legato solo al lavoro, perché lì per esempio dentro quei 17 milioni ci sono anche i bambini, i quali non lavorano, e si calcola che il 25% dei bambini che frequentano la scuola sono disturbati. Quindi, cioè, come dire, stiamo attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. C'è un disagio, è diffuso, è altrettanto vero, un altro dato che viene fuori, che il disagio psichico riceve scarsa attenzione, cioè non viene sufficientemente trattato. Ma io, come dire, da psicologo direi che ci sono due tipi di disattenzione rispetto al disagio psichico. Una disattenzione professionale, che è quella su cui probabilmente, che sottolinea probabilmente questo tipo di inchiesta, perché è fatta da professionisti, e una disattenzione di tipo sociale, che è la disattenzione sulla quale io mi concentrerei, per non incorrere nel rischio di seguire l'interesse di una categoria. È chiaro che gli psichiatri hanno l'interesse, noi psicologi abbiamo l'interesse che tutti siano disturbati e che tutti vengano da noi a farsi curare. Allora, il problema di fondo non è questo. Il problema di fondo è che c'è un disagio psichico diffuso, crescente, dovuto al fatto che ci sono sempre più fattori di rischio sulla nostra tranquillità, sulla nostra felicità, sulla nostra vita, sulla dignità della vita e così via. Tutti i fattori, compreso il lavoro. Come, di che tipo di problema si tratta? Se sono 17 milioni, non si possono mettere tutti in terapia e diventeranno tutti 60 milioni tutti in terapia. Bisogna considerare che è un fenomeno sociale, e come fenomeno sociale va trattato, il che vuol dire che bisognerebbe prevenirlo e che bisognerebbe intervenire, sì, in senso specialistico, ma non solo in senso specialistico, in senso sociale, culturale, generico. Perché altrimenti si medicalizza o si psicologizza o si psichiatrizza qualcosa che ha un aspetto psicologico, medico e psichiatrico, ma che non è solo psicologico, medico e psichiatrico. Noi per esempio a Bologna abbiamo un servizio che si chiama Progetto Rivivere, che aiuta le persone in lutto, e in questo servizio c'è una sezione che si chiama Servizio Primo Maggio, per aiutare le persone che hanno perso il lavoro o che rischiano di perderlo. Ecco, per esempio, lì c'è una specificità, cioè c'è un disagio specifico delle persone, ma l'aiuto che noi diamo a queste persone non è solo, non si limita ad essere un aiuto solo tecnico, perché non può essere solo un aiuto tecnico, ma si tratta per esempio di aiutare le persone a riorientarsi in una situazione di disorientamento, a ridefinire il proprio rapporto col lavoro, a elaborarsi in un modo più adeguato il proprio rapporto in generale con gli altri e col problema di guadagnarsi da vivere. Infatti proprio in questo senso vogliamo andare, quindi questa era una sorta di introduzione, di cappello introduttivo, perché poi andiamo, come dici tu, per non mettere delle etichette a casaccio, anche nelle prossime puntate, a sviscerare i vari ambiti e i vari... Esatto. Partendo appunto da Primo Maggio e dalla questione lavoro. Willy... Andiamo in musica? Se no che ci fai qui tu? Hai ragione anche te, guarda, hai detto bene. Gian Patitucci, a tra poco e buon ascolto. Thank you. Faccio poco e giustamente principalmente la selezione musicale, però insomma soprattutto però, apri i microfoni quando non è il caso e poi aspetto subito, però mamma mia che classe. Oh, adesso ne trovi poi un altro che ti mette su sta musichina. No qui, no, sai? No, no, mi vai bene tu. Ah, infatti, infatti quello che conta è la qualità, vero? Oh, che ci piace, Willy, sì, è la qualità. Grandissimi che siete. Allora, 13 e 22, quasi e 23, oltre la crisi, cerchiamo di andare oltre la crisi e anche contro tutto quello che è la depressione. La cosa paradossale è che ci scrive qualcuno che ci ascolta mentre mangia e dice che la nostra trasmissione la addolcisce, quindi pur parlando di crisi, di... stiamo fungendo da addolcitori, quindi... Ma ti dico io, bene. Ma per me è merito della musica. Sarà quello, sarà quello. Anche. Francesco, io tornerei alla osservazione che faceva prima Willy, perché sul discorso se sono più gli uomini affetti da questo, stiamo parlando di lavoro, in questo momento ci concentriamo, cominciamo quella parte lì, lo stress sul lavoro o da perdita di lavoro, comunque inerente all'ambito del lavoro. E appunto Willy dice: ho la sensazione che siano più affetti, diciamo, la parte maschile della popolazione. Che ci dici in merito? Ma io, come dire, non sono molto affezionato a questa, questa nostra abitudine culturale di riportare tutto alle differenze di genere, no? Anche se ci sono le differenze, ovviamente, no? Dico subito perché non mi intriga più di tanto questa cosa qui. Perché vorrei che finalmente sottolineassimo ciò che accomuna maschio e femmina e non ciò che li differenzia. Da questo punto di vista io penso che, come dire, in definitiva forse si può dire che con delle differenze quantitative sono uguali maschi e femmine, no? Ci sono però differenze specifiche nelle situazioni, per cui per esempio che attengono ai diversi lavori, per esempio, che maschi e femmine ancora fanno, no? Per cui, o al diverso modo di affrontare il lavoro, per cui per esempio si lega al maschile un modo di affrontare le difficoltà che è un modo più diretto, più lancia in resta, no? D'accordo? E invece un modo più femminile che è invece più aggirante, no? Allora, sto pensando ad alta voce, la differenza per esempio in termini di stress che c'è è una differenza che non è una differenza che si può far risalire al maschio o alla femmina, perché se fosse il maschio a dover aspettare si stresserebbe preciso come la femmina, e se fosse la femmina a dover dare risposte immediate, dirette, si stresserebbe come il maschio. Quindi cioè, voglio dire, si tratta di differenze che probabilmente sono differenze più sociologiche, più legate al fatto che i lavori maschili sono di un certo tipo e i lavori femminili sono di un altro tipo, che lo stile del maschio è di un tipo, lo stile della femmina è di un altro tipo. Poi io sono molto affezionato a questa idea che c'è molto maschile nel femminile e c'è molto femminile nel maschile, e vorrei finalmente che maschile e femminile venissero considerate come due aspetti, due stili, due modalità, però in ciascun maschio e in ciascuna femmina. Per cui l'idea mia è che se a un maschio gli fai fare un lavoro da femmina si stressa come una femmina, no? E tanto più quanto meno spiccate sono le sue caratteristiche femminili. E qui però intervengono i ruoli sociali imposti da una cultura secolare, voglio dire, perché sicuramente i maschi che sono in posizioni emergenti, insomma in posizioni alte, quindi in teoria a fattore di stress più alti, i capi, sì, sono cioè, oggettivamente di più. ed è quello su cui si battaglia, ma questo è un altro ambito. Ma poi c'è anche un discorso di ruolo sociale, nel senso che è ancora molto più o meno consciamente condivisa la cosa che è il maschio che porta, che mantiene la famiglia, che porta i soldi a casa. Scusa, la sto semplificando molto, però questa cosa è ancora di là dall'essere scardinata, e questo vale per il manager e vale per il netturbino. Non solo, c'è di più, secondo me non solo è lungi dall'essere scardinata, ma è anche, come dire, da un certo settore, probabilmente ancora maggioritario della nostra cultura, anche condivisa. E certo, non è solo un dato di fatto, è anche qualcosa che viene, cioè, come dire, favorito nella nostra cultura. E allora, come dire, più che dare per scontato questo, la prima cosa che dobbiamo chiederci è se sia giusto tutto questo, cioè se continua a essere giusto che l'impostazione del, per esempio, della differenza tra i ruoli, per quanto sono saltati, tendono un po' a saltare tutti i ruoli, se la tentazione, la tensione della nostra cultura a distinguerli sempre tra il maschile e il femminile sia una cosa da contrastare, con quali argomenti, perché spesso, secondo me, si commette l'errore di dare per scontato che i processi sociali non si possano governare, cioè che ci capitano sulla testa per una specie di destino, perché qualcuno ce l'ha lasciati, perché... No, secondo me noi continuiamo, per esempio, nella maggior parte delle famiglie, l'idea che è l'uomo che porta i soldi a casa è un'idea condivisa ancora da noi. Anche se dalle femmine. Consorte lavora, diciamo. Anche così. Dalle femmine. Principalmente, a volte. No, principalmente no. Principalmente no. Principalmente no, ma però anche dalle femmine. Ma perché le femmine sono educate nello stesso brodo culturale. Certo. Nello che stiamo in un qualche modo mettendo in discussione. E anche quando la donna lavora, però quando succede in una famiglia dove lavorano tutti e due che è l'uomo a perdere il lavoro, uno degli stati di crisi che si manifesta... Si vergogna di più, un uomo che perde il lavoro si vergogna di più di una donna che perde il lavoro. E siamo arrivati alla domanda che ho fatto esattamente alle 13.04 minuti, ma adesso, essendo le 13.30 e ricordando che stiamo parlando di depressione, io farei ascoltare un po' dello standard che è Straight No Chaser di Thelonious Monk, che è un capolavoro assoluto, e poi dopo vado in pubblicità. A fra poco e restate con noi. Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. crisi, questa seconda parte inizia alle 13.36 con la colonna sonora, la base e i brani di Ronnie Jordan. E chi è Ronnie Jordan? A proposito, è scomparso esattamente 2 giorni fa, a soli 51 anni. Grandissimo chitarrista per il mio gusto e ovviamente ritenuto da George Benson il suo erede naturale. Paradosso, George Benson è ancora in vita e gli auguriamo 1000 anni di vita e di carriera, mentre invece purtroppo Ronnie Jordan ha soli 51 anni e per cause sconosciuti ci ha salutati. Quindi noi gli auguriamo buon viaggio, rest in peace, riposa in pace e beh, almeno gli dedichiamo qualche brano. Ecco, io ho fatto il mio coccodrillino. Abbiamo elaborato il lutto. In questo modo. Allora, stiamo parlando, ricordiamo i contatti 051 30... Vedo un po' addormentati i nostri ascoltatori oggi, intorpiditi, no? Sarà la bruma fuori. La nebbiolina. Abbasso la musica. 051 34 64 58 al telefono fisso per partecipare in diretta. Il tema, beh, direi che tocca tutti, depressione, quindi anche con WhatsApp o col cellulare. Perché ridi? Non si parla di niente qua, oh, Francesco, vabbè, ce ne andiamo. 3, 3, 3. Oh, beh, allora tutti che mi fate dire i numeri, se poi mi interrompete ogni volta, fate i risolini, fate i rumori con le bottiglie d'acqua vuote. 3, 3, 3, 1, 8, 0, 9, 4, 9, 4. E la mail, amicidirivivere@gmail.com. Bene. Allora, posto che non stiamo parlando di depressione, perché sennò gli vengono... Sto parlando di disagio psichico o esistenziale. Mamma mia, disagio psichico o esistenziale? Ma guarda un po', che nome così esteso, così particolare. E io che vengo da una famiglia di contadini e di operai che si sono trasferiti dalla bassa tra Bologna e Ferrara, e quindi sono un po' la pancia della trasmissione, così ti chiedo a bruciapelo, quali sono i sintomi? Allora, i sintomi sono solitamente relativi a una patologia, no? Cioè, oppure sono segnali che ci fanno capire che uno è a disagio, no? Allora, distinguiamo ancora una volta tra queste, perché quando si dice sintomi, immediatamente la gente pensa a una malattia, no? Io direi i segni, come si manifesta il disagio esistenziale derivante per esempio dalla perdita del lavoro. Ecco, quello della perdita del lavoro, facciamo un esempio, perché è ovvio che si tratta qui di disagi esistenziali al plurale. Il disagio esistenziale per la perdita del lavoro, da cosa è caratterizzato? È caratterizzato da un sentimento di umiliazione, da un sentimento di abbandono, da un sentimento di vergogna talvolta, da una perdita dell'autostima della persona, e poi c'è tutto il contorno dei sentimenti e delle sensazioni dei vissuti che si accompagnano a un senso di ingiustizia, la rabbia, la colpa, forse me lo sono procurato da me, forse dovevo fare un'altra cosa, dovevo comportarmi in un altro modo, forse quello stronzo lì che non mi voleva, che mi ha provocato questo. E poi tutte le sensazioni che sono relative agli effetti collaterali della perdita del lavoro, per esempio il senso di isolamento, per esempio il senso di la perdita del senso della vita. Che ci sto a fare, che mi alzo a fare la mattina, che faccio oggi, come riempio il mio tempo, e così via. Poi tutto ciò che ha a che fare con le ripercussioni sulle relazioni, per cui se gli altri per esempio me lo rimproverano, oppure io, anche se non me lo rimproverano, ne sento in colpa, come faccio a mandare mio figlio all'università, come faccio a fargli i regali che gli facevo sempre, come faccio a dargli da mangiare. Adesso io quello, dicevo, sì, dicevo effetti, tutti gli effetti possibili a seconda del livello sociale. Poi io intanto apro e chiudo parentesi, scusami, non ti voglio far perdere il filo, però per sollecitare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori proprio su queste cose qui, chi per qualche motivo anche di passaggio da un lavoro a un altro oppure si trova in questa situazione e ce lo vuole raccontare o ci vuole dare delle specifiche in più attraverso un sms, una telefonata, insomma, partecipate, perché sono comunque sentimenti condivisi, siamo qua apposta per condividerli in modo di andare oltre. Esatto, esatto, scusa Francesco. Ecco, poi se vogliamo parlare per esempio invece dello stress da lavoro, non da perdita del lavoro, lo stress da lavoro è relativo, è diverso a seconda del tipo di lavoro che fai. Per esempio, se c'è un lavoro che stravolge i tuoi ritmi vitali, è un lavoro che devi fare a grande velocità, come se fossi sempre in emergenza, è ovvio che questo ti provoca certi effetti, un effetto di ansia che può diventare cronica, l'insonnia e così via. Se invece si tratta per esempio di un lavoro che è polleggiatissimo, ma che tu odi. Beh, bello, polleggiatissimo e tipico siciliano. Sì, è siculo calabro lucano. Tu puoi avere un lavoro polleggiatissimo, però in cui non ti riconosci per niente, che non dà senso alla tua vita, che tu detesti quel lavoro lì. Ecco, una dei disagi più diffusi, che forse non si chiamano stress, forse bisogna chiamarlo in un altro modo, è proprio questo nel lavoro. Scusate, il fatto che tu la maggior parte di quelli che lavorano non lavorano facendo il proprio lavoro, ma lavorano facendo un lavoro. Questo è una fonte di disagio notevolissima. Naturalmente, in un periodo di crisi in cui le persone fanno fatica a trovarlo il lavoro, sembra un lusso voler fare il lavoro che realizza te e proprio te e non un altro lavoro. Sembra un lusso, però gran parte del disagio esistenziale delle persone che lavorano deriva da questo. Peccato che le persone che lavorano. Peccato che sia arrivato alle 13:43, perché questo tasto qui è molto interessante. Il disagio psichico dovuto al lavoro che non ti appartiene. Esatto. Questo è fondamentale. Il paradosso, giustamente, come hai detto, per il fatto che di lavoro ce n'è poco, ma del resto è anche vero che poi legarsi per tutta la vita a una realtà che non è la tua, per non parlare poi di quelle che possono essere altri tipi di vessazioni, non solamente con gli oggetti, col lavoro, con la, diciamo così, prassi che non ti appartiene, ma automaticamente la difficoltà ad interagire poi con le persone che non fanno parte di una realtà che è tua. Certo, perché se non ti senti te stesso, ti puoi non sentire te stesso, perché non lavori, perché stai con le persone che non ti piacciono, perché vivi negli ambienti che ti fanno schifo. Certo. E così via. Persone che non... E le due cose sono legate. Sì. Cioè, se dopo magari ci torniamo, se volete, su questo punto, cioè... Di solito si considera il problema della perdita del lavoro come il problema del recupero del lavoro. In realtà si potrebbe considerare il problema della perdita del lavoro come il problema del trovare il lavoro giusto. Eh sì. Sì, questo è giustissimo quello che stai dicendo, lo condivido pienamente, è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, quindi ne posso essere tra virgolette in maniera negativa, in seguito poi positiva protagonista. Questa cosa qui, per chi ne ha tra virgolette la possibilità o la fortuna anche che gli possa capitare, è una occasione da prendere al volo, perché il lavoro è un aspetto fondamentale della nostra vita. Viverlo sotto vessazioni, stress, in una realtà che non ci appartiene, attenzione, bisogna pensarci due volte. Poi ovvio c'è tutto un discorso di umiltà, di sacrificio, di necessità, del quale io sono tifoso assolutamente, per prima viene questo, però si può affrontare con umiltà, sacrificio, dedizione anche una cosa che ti piace. Automaticamente non vuol dire che se una cosa ti piace deve essere anche qualcosa che, vabbè, mi piace, che bello, come posso essere più rilassato, sicuramente non avrò un disagio psichico. No, perché, se uno l'affronta così è sbagliato. Perché è meglio, piuttosto che dire mi piace, è meglio dire mi dà senso. Certo, è arrivato un SMS, attenzione. Vai. Adesso io vado, voglio, prima devo imparare a usare il ricevitore di SMS, poi andiamo. Quindi cominciate pure a far bene. Va bene, noi continuiamo. Eccolo, ce l'ha fatta. Aspetta, ce l'ho fatta. Incredibile. Abbastanza lungo, spero di riuscire a... Non so se la mia sia stata una vera depressione. Sicuramente sono stata divorata dai sensi di colpa. Ho avuto difficoltà serie a realizzarmi professionalmente, grandi ambizioni e infiniti rifiuti. Mi è costato tanto, anche il mio matrimonio. Non ero, tra virgolette, abbastanza per il mio compagno. Ora sto ricominciando, ma non so più chi sono. E alle volte temo di non potermi più permettere di sognare. È disagio psichico la cronica perdita della speranza e della fiducia, tra parentesi. Lo scrive Stefania, al quale mando un grande abbraccio, un in bocca al lupo e ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. E adesso alla parola va al professor Francesco Campione. Beh, ma qui mi sembra appunto che sia una persona che ha gli effetti di un'esperienza negativa. No? Giustamente, come dice, sto ricominciando, e allora il problema è che quando per superare un'esperienza negativa bisogna fare delle esperienze positive. Quindi recupererà la speranza quando le cose cominceranno a funzionare. Quindi la cosa certe volte deleteria, difficile, che ostacola, è che tu la speranza la vuoi prima e non ti muovi. No, ti capita, hai una vita in cui il matrimonio non va bene, il lavoro non va bene, eccetera, e tu poi ti deprimi e vai giù così, eccetera. Il tuo problema è tornare su, non avere speranza per tornare su. La speranza viene dopo che sei tornata su. Ma come torni su? Perché anche questo, uno può dire: ok, ho l'obiettivo che devo tornare su, però non so da che parte cominciare, oppure mi trovo in un pozzo con le pareti completamente lisce. Se non so, se non so da che parte, qualunque parte va bene. Certo, non ha importanza. Il fatto è, la cosa che ostacola di più è il fatto che tu vuoi acquistare fiducia nel farcela prima di avercela fatta. E quella è la cosa che ostacola di più. Se tu come il vecchio proverbio, l'appetito viene mangiando. Se tu aspetti di avere appetito, non mangi. Tu prima mangia e poi ti verrà l'appetito. Se tu per muoverti e superare una certa situazione critica vuoi sperare, vuoi essere certo di superarla, non ti muovi mai, perché appunto ti chiedi: ma ce la farò? Ditemi che ce la farò, così mi muovo. No, tu muoviti. L'incoraggiamento ti verrà dal fatto di esserti mossa. E pian pianino poi qualcosa succede. Certamente, certo, perché se ti muovi da qualche parte arrivi. Ok, vai. Hai capito? Vado dove? Prova con la musica. Provo con la musica. Allora proseguiamo con Ronnie Jordan e in questo caso invece andiamo ad ascoltare Get to Grips, il brano che apre questa selezione dal suo primo disco The Antidote. Buon ascolto e a fra pochissimo per i saluti. Rubber told me he was shooting from 51, oltre alla crisi, disagio psichico. Questa volta ho detto bene, però scusa se ti interrompo, sentivo che parlavi di chiedere indicazioni per strada, è un dilemma atroce. No, no, lascia stare. Ok, io chiedo sempre. Ecco, bravo, ma tu sei un caso a parte. Ma tu hai molte caratteristiche femminili. Sì, ne sono fiero. Ecco, direi che non apriamo quella porta perché sennò andiamo proprio fuori. Okay. Ci arrivo. La terremo per un'altra occasione. Allora, no, volevo chiudere questa puntata, però rassicurando le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che continueremo a parlare di questa cosa. Quindi anche se vi sono venute in mente riflessioni, voglia di raccontarci come ha fatto Stefania, il suo percorso, parti del suo percorso, insomma così, ci potete scrivere a amicidirivivere@gmail.com oppure intervenire nelle prossime puntate, perché continueremo a rimanere sul tema. Non è un tema che può essere liquidato in un esaurito, si direbbe in termini esaurito tecnici. Hai ragione tu, in un'oretta scarsa. Voglio tornare sulle differenze uomo-donna, nel senso, tu prima dicevi preferisco guardare ciò che li accomuna, ma alle volte le differenze servono non tanto per marcare la differenza, per dire io sono così, tu sei così, ma per capire come l'altra parte può convergere magari su caratteristiche positive dell'una parte o dell'altra, per imparare gli uni dagli altri migliorandosi. Bravo, esattamente. E notavo in questo articolo appunto che veniva messo in risalto come le donne tendano a essere più a cercare di più l'aiuto nel momento del malessere o del disagio esistenziale. Sì, questo è verissimo. Questo è verissimo, tant'è vero per esempio che c'è una prevalenza, per esempio negli studi di psicologi c'è una prevalenza femminile proprio massiccia, che le donne chiedono più facilmente aiuto perché hanno più fiducia, per esempio, ci sono tante ragioni, alcune le esplicitano, altre no, alcune sono esplicite, altre sono meno esplicite. Per esempio una ragione è questa, tantissime donne dicono le cose se si affrontano si risolvono, no? C'è più pazienza nel femminile, no? Per cui c'è più fiducia, per esempio, nel parlarsi nel femminile che nell'agire, no? Per cui anche quello, ne parliamo e risolviamo il problema. Poi c'è un altro aspetto che secondo me è il vantaggio dell'essere stati per secoli svantaggiati, e cioè che si chiede aiuto più facilmente. Per esempio al giorno d'oggi chiedere aiuto è difficilissimo, le persone non sanno più chiedere aiuto. Però c'è una differenza tra il maschile e il femminile: per un maschio chiedere aiuto è più svilente, non ce l'ha fatta da sé; per una femmina è meno svilente chiedere aiuto, l'appoggio di un altro, la condivisione, così eccetera, sono caratteristiche più gradite al femminile. E poi nella società malata, gravemente malata com'è, su un uomo ci sono più aspettative. Sì, sull'uomo ci sono più aspettative, ma soprattutto quali aspettative? Per esempio, se in questa società si insegnasse agli uomini un po' più di socialità, certo, si potrebbe quello che, scusami se ti interrompo, guarda me, perché ci stavo pensando adesso, perché stiamo parlando di cultura nostra, cultura, certo, e società occidentale, perché per esempio nella società e cultura araba questa cosa avviene, perché gli uomini fanno molta comunità tra di loro e si autoaiutano, si raccontano le loro cose, eccetera, c'è sempre l'amico di riferimento. Ricordo solo che il nostro numero 333-180-9494 è destinato per gli SMS. È arrivata una chiamata che fra l'altro non ho sentito perché non è un telefono atto per le risposte vocali. Se volete chiamare 051-3464-58, ormai in chiusura ovviamente, però se siamo ancora qui la prendiamo. Proviamo a richiamarlo noi, se no. Adesso cerco di recuperare il numero. Vediamo se ce la facciamo. Intanto andiamo avanti, tecniche. Francesco, sì, su scusa, questo Francesco. Discorso del parlarsi, sì. Scusami. Sì, sì, no, no, ma questo per esempio ci sono, questo è uno degli aspetti, la maggiore capacità di chiedere aiuto, no? È uno degli aspetti in cui, come dire, il femminile ha molto da insegnare al maschile, no? Perché tutte le volte che c'è da che si ha bisogno di un aiuto, se non si chiede si ritarda il fatto che lo si possa ricevere, no? Per cui le donne arrivano prima da questo punto di vista, no? Donne e bambini arrivano prima, guarda caso. E quindi in realtà questa è una forza, in realtà è una forza che deriva dal fatto di essere più deboli. È una conseguenza. È una conseguenza, ma ci sono tanti aspetti della debolezza. Più deboli ovviamente specifichiamo culturalmente, no, socialmente. No. E anche prima specifico anch'io, ci sono più aspettative in seguito alla società che no, è completamente... Non solo, ma specifichiamo un'altra cosa. Il sesso forte sono le donne, è quello femminile. Voi considerate, si ammalano meno, muoiono molto più tardi. Dal punto di vista biologico è il sesso forte, Sì. Dal punto di vista biologico non c'è dubbio che sia il sesso forte. Ha più resistenza. Poi probabilmente lo è anche da tanti altri punti di vista. Adesso per esempio, se consideriamo i successi scolastici, per esempio adesso le donne vanno molto meglio in tutte le professioni, bisogna studiare, dove c'è una massiccia prevalenza del femminile, no? Eh sì, anche perché una volta purtroppo non funzionava, insomma ancora peggio, per cui si può sempre migliorare, si può sempre restare sui 103.1 e noi siamo arrivati alla conclusione e ai saluti. Giustamente è stato presentato questo argomento molto particolare che in una sola puntata, come ha detto Francesca, non può essere esaurito e quindi diamo appuntamento alla prossima. Sì, chiediamo al nostro ascoltatore, alla nostra ascoltatrice che ha cercato di chiamarci, di riprovare la prossima puntata o di iscriverci. Ricordiamo la mail, appunto, amicidirivivere@gmail.com e basta, saluti a tutti. Ciao a tutti e buon appetito per chi deve ancora andare a mangiare. Ciao Francesco, grazie mille. Ciao, come sempre. Grazie a voi. oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.